Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Può un bagno schiuma diventare un detersivo? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, la risposta è sì, grazie alle magie della brand extension. Ne parliamo in questa prima parte di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Per il focus sui trend, spazio invece ai consumi da favola, quando la fiaba fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità di questa settimana. Al via anche in Italia Google Shopping, il canale dedicato agli acquisti. Non è un negozio online, ma un motore di ricerca integrato a quello tradizionale, che raccoglie ed elenca i prodotti degli store online dei vari commercianti. Italy come IKEA. La pubblicità gay friendly fa proseliti. Anche noi di Italy siamo aperti a tutte le famiglie, recita la nuova campagna della catena del Made in Italy di qualità. Sotto l'immagine di due donne, nel caso del colosso svedese erano due uomini, che si tengono per mano. Il mercato del lusso torna a girare a pieno regime. Record di consumi nel 2010, previsioni in rialzo per il 2011. Secondo i dati di Alta Gamma, l'anno scorso il giro d'affari è tornato a livelli superiori rispetto all'anno record del settore, il 2007. Abbigliamento, gioielli e accessori in crescita a doppia cifra. Si chiama Un racconto nel carrello, il concorso con cui SMA festeggia il suo 50° anniversario. I clienti della catena di supermercati potranno sfidarsi in un racconto di 2000 battute che avrà per protagonista un'esperienza d'acquisto. I migliori saranno raccolti in un libro il cui ricavato sarà devoluto a Teleton. Messaggio scorretto. Accogliendo un ricorso dell'Unione Nazionale Consumatori, l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria invita la Coca-Cola a rivedere lo spot in cui suggerisce un consumo quotidiano della bibita durante i pasti. Contro il caro bus arriva il ticket crossing, scambio di biglietti tra passeggeri. Presto a Bologna, dove l'iniziativa è nata per protestare contro gli aumenti decisi dall'azienda trasporti, punti fissi di scambio dei biglietti ancora validi. Si chiama Fashion Freedom, il marchio di moda etica nato dalla collaborazione fra Coop e International Trade Center, l'agenzia delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Una serie di magliette disegnate da stilisti emergenti e prodotte in Africa da alcune comunità di donne povere e marginalizzate. Quella di quest'anno sarà un'estate comoda per le signore. Di tendenza, i pantaloni lunghi e larghi, dai pigiama palazzo a quelli stile harem. All'insegna della comodità anche il grande ritorno della gonna pantalone, vero e proprio must del prossimo autunno-inverno. La borsa della spesa. Avete presente le giacche dei Beatles senza colletto? Una vera e propria rivoluzione nel mondo della moda, rivoluzione firmata Pierre Cardin, lo stilista francese di origine italiana, fondatore di un vero e proprio impero. Impero che a 88 anni ha deciso di mettere in vendita per la cifra, dice lui, di 1 miliardo di euro. Peccato che nessuno sia disposto a sborsarli, visto che per gli analisti la Maison, marchio conosciutissimo ma collezioni desuete, vale non più di 200 milioni di euro. A detta dello stesso Cardin, a quella cifra si arriva mettendo insieme tutte le licenze, sono circa 600, ma il giro d'affari è difficile da stimare, commercializzate su centinaia di prodotti in giro per il mondo, dalle ceramiche agli orologi, passando per gli accendini e la carta da lettere. Lo stilista francese è stato negli anni un vero e proprio campione di quella che oggi si chiama brand extension, la strategia di marketing che consente di spalmare la marca su più prodotti, anche molto diversi dal settore d'origine di quel marchio. Diffondere il brand e attrarre nuovi clienti, il vantaggio, confondere il consumatore e danneggiare l'immagine del marchio, i rischi. Brand extension e licensing sono la stessa cosa? Lo abbiamo chiesto a un esperto, Paolo Lucci, autore di Brand Gem, moltiplicare i valori di marca facendo un sacco di soldi. Ma direi sono due modi di vedere la stessa cosa. Brand extension significa qualsiasi attività tesa a portare un brand, un marchio, altrove rispetto al mondo in cui si è generato. Un esempio, Felce Azzurra Paglieri, neanche troppo recentemente, è diventato da Toiletries per la persona un detersivo per lavatrici. Questa è una brand extension operata tra l'altro dalla stessa azienda che produce la Paglieri, che produce il Toiletries a marchio Felce Azzurra. Un'attività di brand extension come quella della moda sugli occhiali, per esempio l'occhiale di Dolce Gabbana, è un'altra brand extension che però è operata tramite licenza. In questo caso ci sono delle competenze specifiche sia di prodotto che commerciali che fanno sì che il marchio Dolce Gabbana si debba rivolgere allo specialista, produttore e distributore di occhiali per ottenere il risultato. Quindi questa seconda è una licenza, cioè cessione del marchio a terza parte. La prima, il Felce Azzurra, è una brand extension operata dallo stesso titolare del marchio Felce Azzurra. Il risultato per il consumatore è lo stesso, nel senso che si trova più prodotti, anche molto diversi tra loro, firmati dallo stesso marchio. Però certo, per l'azienda è una scelta strategica diversa, ovviamente. Certo. Anche perché nel secondo punto, cioè quello della licenza, il cosiddetto licensor, cioè colui che cede la licenza, deve assolutamente controllare tutta la filiera, il design, la produzione, la distribuzione, i prezzi, considerando che ha terziarizzato però tutto. Quindi il tema principale nel licensing è quello del controllo dell'output. A che cosa bisogna fare attenzione nel licensing? C'è il rischio di perdere un po' l'identità del marchio? Sì, assolutamente, quello è il primissimo punto critico. E infatti la coerenza dei valori di marchio deve essere l'architrave in cui si deve operare. In ogni modo bisogna quindi mantenere la coerenza dei valori del brand e soprattutto bisogna andare a cercare chiaramente quali sono i valori del brand. Questo nella moda non è un grosso problema, ma le faccio un esempio. Un prodotto di mass market come Chupa Chups ha da anni ormai un progetto di licensing molto molto interessante, che parte dal presupposto che Chupa Chups non è un lecca lecca, è un modo di vivere. Il loro statement è la vita meno seria. Questo comporta tutta una serie di interpretazioni del marchio che poi si declinano su t-shirt, ma anche su caschi da moto, su giocattoli o su prodotti toilet addirittura. Ci vuole fare qualche altro esempio dei casi storici ben riusciti di brand extension? Io sono un grande fan di Playboy perché dal punto di vista di marketing hanno operato quasi un miracolo. All'inizio degli anni 2000, quando l'azienda Playboy Enterprise aveva si reso conto che internet avrebbe creato una notevole attività di competitiva rispetto a quello che erano i valori di Playboy su publishing e magazine e soprattutto sull'entertainment, cioè DVD e serie TV, avevano già un'attività di licensing orientata all'uomo. Hanno completamente ricominciato da zero con il target femminile. 5 anni dopo, l'80% del prodotto Playboy viene acquistato tutt'oggi dall'80% da donne. Come hanno fatto? Hanno operato principalmente di nuovo non tanto sull'icona del coniglietto, ma sul fatto che il valore di Playboy non è il sesso fino a se stesso, ma l'istituzione, che è un valore comunque anche femminile, se è giocato in un modo, come dire, qualitativo. Quindi operando una revisione totale dei licenziatari, quindi riposizionamento anche della distribuzione, prodotti da Department Store, Capsule Collection firmate insieme a Donatella Versace, hanno riposizionato completamente il marchio. E oggi nel 2008 il 65% del margine dell'azienda veniva portato dal licensing. Da un punto di vista di marketing si tratta veramente di aver riposizionato un marchio tipicamente maschile, ribaltandolo verso un target 80% femminile. Questo dal punto di vista di comunicazione appunto è quasi un miracolo. Come si sta muovendo su questi fronti il mercato italiano rispetto ad altri mercati? Siamo all'avanguardia? Siamo ancora, come dire, ai primi passi? Sulla moda lo siamo stati, perché il Made in Italy da Armani in avanti ha trovato nel licensing la chiave di volta per finanziare, diciamo, le crescite. Questo ci ha dato però un po' di limite negli anni fine anni 90, dove i fashion design hanno cominciato a riprendersi in carico le licenze proprio per ottenere il 100% del controllo, visto che ormai avevano anche una filiera distributiva diretta che potevano controllare. In questo senso ci siamo un po' arenati sul fashion. Devo dire che lavorando nel settore ormai da 15 anni mi sembra di vedere un interesse nuovo, un po' più strategico, e questo si riflette sia nel fatto che ci sono molte più aziende che si affacciano alla licenza, alle aziende licenziatarie, c'è un dato anche di maggiore penetrazione del numero di licenze medie per licenziatario, senza arrivare a Luxottica che ne ha 22 o Cartorama che è un'azienda di prodotti per la scuola che ne ha 70, i competitor nei rispettivi comparti stanno aumentando anche il loro numero delle licenze, questo ovviamente crea anche una maggiore offerta. L'Italia oggi viene anche considerata territorio di conquista da parte di altri licensor. Mi piace pensare a un nuovo rinascimento del licensing italiano che comunque dà anche spazio al pensiero prima dell'azione. Essere e avere. C'era una volta, in una terra lontana lontana, un minuscolo regno. Pacifico, prospero e ricco di antiche e poetiche tradizioni. Di nuovo in studio con Essere e Avere, il focus sui trend di questa puntata è tutto dedicato, lo avrete capito, alla fiaba e alle favole. Cosa abbiano a che fare con i consumi lo capiremo tra pochissimo in compagnia, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Consumi da favola, il titolo che abbiamo scelto, giochiamo sull'equivoco, ma i prodotti di lusso non c'entrano affatto. Vogliamo invece parlare di consumi che abbiano a che fare in qualche modo con il mondo delle favole, del racconto. Parliamo cioè delle atmosfere, dei richiami fiabeschi nella moda, nel design, nell'arte, nella TV e nel cinema, e del successo del racconto e della narrazione nella pubblicità e nel marketing. Patrizia. Beh, intanto siamo reduci dall'evento fiabesco dell'anno, il matrimonio reale seguito da questa immensa corte planetaria, anche online, più di 1.600.000 connessioni in live stream, è di fatto l'evento più visto nella storia, secondo solo all'elezione di Obama, parliamo dell'online. La fiaba dunque è l'altrove, è il luogo altro, è il mondo separato e diverso dal mondo reale in cui viviamo, un mondo dove il bene e il male, i buoni e i cattivi sono chiaramente distinguibili. Inoltre, la struttura della fiaba è rassicurante perché ruota intorno a delle invarianze, c'è sempre un inizio tranquillo, un evento imprevisto che rompe l'equilibrio, varie peripezie e un finale risolutivo. I personaggi hanno ruoli costanti, la vittima sacrificale, il persecutore, l'eroe salvatore. Magia e incantesimi, che sono gli elementi imprescindibili della fiaba, ribadiscono in questo momento il loro protagonismo e nell'immaginario e in nuove aree di consumi culturali non adolescenziali. Sono tre le nuove serie televisive in uscita, una è già uscita, due di prossima uscita, che sono proprio a tema magia e insieme al fenomeno vampiri e zombie connota in maniera molto precisa la tendenza legata al soprannaturale nella produzione culturale. La prima è Camelot, in onda dal 1 aprile 2011 sul canale a pagamento statunitense Stars, fa rivivere le gesta leggendarie di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda con un cast d'eccezione. Eva Green è la Fata Morgana, Joseph Fiennes nei panni di Mago Merlino. La serie è appunto un fantasy con le caratteristiche però dell'adult drama cosiddetto, cioè è una favola classica ma diventa metafora delle società contemporanee alla ricerca di un mondo e di governi migliori. La seconda è Distretto 17, l'ultima creatura di Ronald Moore, andrà in onda sul canale via cavo NBC. La storia è ambientata a Excelsior, una futuristica San Francisco in cui la magia ha preso il posto della scienza, la piantata. È un mondo in cui le auto non hanno il volante perché sterzano da sole, internet è completamente sparita, sostituita da una sorta di scia di fumo che porta le notizie preferite su un foglio di carta e ce le porta direttamente nel posto in cui ci si trova. E la terza è Hobgoblin, il nuovo progetto di HBO ideato dallo scrittore americano Michael Chabon, che sta creando parecchio brusio in rete, è in fase di sviluppo e sarà una serie incentrata su un gruppo di maghi che durante la Seconda Guerra Mondiale si mette mette a disposizione dell'intelligence per sconfiggere niente poco di meno che Hitler. Favola, protagonista da tempo anche nel cinema, non parliamo ovviamente delle pellicole per bambini, citiamo su tutti Tim Burton, maestro delle ambientazioni fiabesche e poetiche. Ora però la favola contagia anche l'insospettabile filone horror. Non possiamo continuare così. Ti hanno promessa in sposa Harry Lazar. E ora come andrà? Farei tutto per stare con te. Ha ucciso ancora il lupo. Di giorno il lupo ritorna alla sua forma umana. Il lupo è un abitante di questo villaggio. Dimmi chi è. Sta arrivando il lupo. Ti darà ciò che meriti. Era Cappuccetto Rosso Sangue, film recentissimo, liberamente tratto da una delle favole per eccellenza, una sorta di reinvenzione gotica di Cappuccetto Rosso. Patrizia, un filone fortunato, altri successi come Twilight, ad esempio, la regista tra l'altro è la stessa, lo testimoniano. Sì, un filone che fa per esempio del tema del bosco, che è uno dei topos, delle caratteristiche chiave di tutta la letteratura fiabesca, diciamo il luogo chiave. Il bosco, come noto, è il luogo dove ci si perde e ci si ritrova, è un po' come in Alice nel Paese delle Meraviglie, la porta di accesso al sottosuolo, sottosuolo che è fisico ma anche metaforicamente sottosuolo psichico, quindi è l'accesso al proprio inconscio. E tra gioco, ricerca di sé e favola si scrive anche il trend delle case sugli alberi, delle vere soluzioni abitative, dei nidi rifugio sospesi tra i rami degli alberi nelle foreste vere. Barone rampante dei nostri giorni, Todd Holdham, il celebre designer americano, fondatore della rivista Nest, Nido, quindi forse non è solo una bizzarra ostentazione, risiede proprio in una casa su un albero in un bosco a 2 ore da New York. La casa è rigorosamente di legno ed è un progetto esistenziale, oltre che architettonico, che dice anche di nuovi stili di vita all'incrocio tra natura e cultura, tra paradisi naturali e digitali, tra sogno favolistico e realtà quotidiana. Soprattutto con la moda e il design si gioca con stili e personaggi delle fiabe che trasformano il nostro quotidiano in un momento ludico e divertente. È il caso delle scarpe perfate di Zoraide.com, dove l'artigianalità estrema di queste scarpe, che sono di fatto un posizionamento molto alto, lusso, sono cucite a mano e si legge trattate come fiori. Pensate, ogni modello della collezione estiva ha stampato al suo interno il nome di una fata. Il lussuosissimo Salomè in rettile costa 550 euro ed è a tutti gli effetti compreso il prezzo da favola. Ma il gioco con i personaggi delle fiabe può diventare anche una forma di fiction comportamentale che in certi casi prende un po' il sopravvento, diventando una vera monomania. Negli Stati Uniti la chiamano Princess Obsession, la sindrome da principessa. Colpisce bambine e ragazzine che non escono da questo ruolo e vivono quindi le loro giornate da principesse proprio alla lettera. Vanno all'asilo o a scuola vestite da Cenerentola, Ariel, Rosa Spina, Belle o Rapunzel che sia. Le più grandi hanno felpe, jeans e total look brandizzati, hanno l'ossessione del colore rosa che è il nuovo oro, stanze allestite a tema, giocattoli, trolle, accessori per la scuola e per il viaggio, stoviglie da cucina rigorosamente coordinati. Pensiamo che sono circa 25.000 i prodotti Disney per principesizzare le bambine tra i 2 e i 7 anni di tutto il mondo, per un fatturato di 4 miliardi di dollari annui. Passando al mondo della comunicazione, ma senza lasciare Disney, il grande mito dell'obiettivo Annie Leibovitz firma la nuova campagna pubblicitaria dei parchi a tema, utilizzando attrici e attori hollywoodiani che impersonano i personaggi delle fiabe più famose. Gli scatti includono tra l'altro dei famosi cattivi, per esempio Jeff Bridges e Penelope Cruz inscenano La Bella e la Bestia, Olivia Wilde e Alec Baldwin sono la regina, la strega di Biancaneve e lo specchio, Queen Latifah e Ursula della Sirenetta. ispirazione c'era una volta anche per complementi d'arredo e oggetti per la casa. All'ultimo salone del mobile si sono visti parecchi oggetti fiabeschi, la testata per letto con le grandi ali di una farfalla in metacrilato trasparente di mariposa, il letto rosamunda perego che evoca e simula dei petali di fiori sovrapposti, la chaise longue tappeto volante in corian decorato per Tao, la candela incantata di Ingo Maurer. Questa è una misteriosa e scenografica lampada candela rivestita di vera cera che resta sospesa in aria, di fatto con un filo invisibile, ma che appunto non si vede per nulla, con un ulteriore effetto speciale legato al fluttuare della luce della fiammella. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Melbourne su Consumi da favole dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Le opere di Jeremy Blinko, fotografo australiano molto attivo anche nel mondo della moda e dell'advertising, sono un condensato di simbologie e atmosfere fiabesche. In particolare la sua serie Wonder and Wonder, Vagare e Stupirsi, dichiara fin dal titolo la sua ispirazione onirica. Gli scatti ritraggono infatti bambini che riportano subito alla memoria i bambini perduti dell'isola che non c'è, quella di Peter Pan. Sono immersi, quasi sovrastati da paesaggi naturali selvaggi e appaiono sì abbandonati a loro stessi, ma allo stesso tempo ostentano un'aria di indipendenza e sprezzo dell'avventura. Tra boschi, caverne, scogliere a picco sul mare, animali a volte innocui, a volte minacciosi, i piccoli protagonisti sono persi nei loro pensieri, con uno sguardo innocentemente ignaro, e sembrano non accorgersi dei misteri e dei pericoli che la natura che li circonda nasconde, quasi si trovassero in una favola dark dei fratelli Grimm. L'autore non ci spiega perché né come siano arrivati lì, si limita a costruire e sottoporci un'immaginifica suggestione che risveglia in chi guarda ricordi sopiti di storie e fantasie infantili. E tutto ciò l'artista lo ha fatto attraverso un meticoloso lavoro di pre e post produzione che l'ha portato per un anno alla ricerca della giusta location, del giusto soggetto e della giusta luce. Grazie Alessia. Patrizia, lo dicevamo in apertura, la fiaba, il racconto è un modello di comunicazione che si vede anche in pubblicità e nelle strategie di marketing più in generale, così? Sì, è lo storytelling cosiddetto, si parla anche di marketing narrativo, cioè l'uso delle tecniche narratologiche basate sulla storia e quindi su una struttura ben precisa che aumentano l'impatto del messaggio. L'idea molto semplicemente, che è quella di sempre, che tutto quello che si compra, che si vende siano storie, dunque saperle raccontare con questo approccio è una competenza, un sapere che tra l'altro si può apprendere. Quindi lo storytelling può diventare un modello operativo, diventare cioè storytelling, saper raccontare storie significa saperle vendere e saper vendere storie di impresa, storie di prodotto, di vita, pensiamo al personal branding, o storie di luoghi e pensiamo al marketing territoriale. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it dal quale potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.